Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani, buona giornata e ben ritrovati a Salva Danaio. Oggi torniamo a parlare dell'IMU, l'imposta municipale unica, la vecchia ICI, che continua a far discutere e a creare non poche preoccupazioni. Prima di tutte, naturalmente, la consistenza di questo tributo, che avrà un peso non indifferente sul bilancio di molte famiglie. Poi, elemento da non sottovalutare, soprattutto da qualche ora a questa parte, si è accesa, come avete sentito, la protesta dei sindaci. Molti stanno contestando l'introduzione dell'imposta, la sua gestione, con la Lega che ha invitato alla disobbedienza civile, alla disdetta dei contratti con Equitalia, e tanti primi cittadini non stanno digerendo appunto che una tassa definita municipale in buona parte non resti per niente affatto nelle casse dei comuni, e neanche la frammentazione possibile per i contribuenti in tre rate è stata molto gradita. E allora, a poche settimane dalla scadenza del pagamento della prima porzione dell'imposta prevista per il 18 giugno, alcuni aspetti continuano ad essere provvisori e per definirli bisognerà aspettare ancora qualche mese. Dopo l'allarme lanciato dai CAF, dai centri di assistenza fiscale ad inizio aprile, alcuni punti si sono chiariti. I pagamenti dell'acconto di giugno, lo ricordiamo, avverranno attenendosi alle aliquote standard, quelle fissate dal governo. Insomma, è solo nei mesi successivi si saprà come interverranno i comuni, che possono aumentare o diminuire appunto le aliquote, e lo stesso governo, che prima del saldo definitivo di dicembre potrebbe ancora modificare le percentuali da applicare al calcolo. E nel corso di questi giorni di aprile sono arrivate altre novità in materia. Prima di tutto è stata introdotta, come vi dicevamo, la possibilità di versare il tutto in tre rate. Oggi a Salva Danaio facciamo il punto sulle novità, ricordiamo tutte le scadenze, le modalità di pagamento e, importantissimo, anche il meccanismo da imparare per calcolare a quanto ammonta l'importo dovuto. Certo che però fa un po' sorridere, questo lo voglio sottolineare, il fatto che si debbano pagare due o tre acconti prima di avere due acconti e poi il saldo, ancora prima di avere chiarezza della totalità del tributo, e quindi che tutta l'operazione sia stata concepita un po' male, mi pare di poterlo oggi di nuovo dire, non mi pare che sia assolutamente un segreto. Comunque, Cristiano Dell'Oste, Il Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Ti vedo balzare peraltro da qualche settimana a questa parte da una TV ad un'altra, da una trasmissione televisiva ad un'altra, adesso a parte i complimenti, ma segno che c'è veramente ancora molta chiarezza da fare sul pagamento, come dicevamo, di questo tributo. La domanda vera, e poi risentiremo la scheda con tutta la sintesi della questione, vi presento tra l'altro anche il secondo ospite di oggi, ma molti colleghi mi hanno chiesto, alla luce anche di quello che ci hanno raccontato, di quello che abbiamo raccontato a Radio 24 sulla forte contestazione soprattutto dei sindaci del nord, data questa sollevazione dei comuni, secondo te la pagheremo alla fine l'IMU o ci sarà qualche colpo di scena, dato l'invito alla disobbedienza civile, che è veramente qualcosa di clamoroso? Ma io credo che allo stato attuale la pagheremo, credo che la pagheremo anche perché la scelta del non farlo ad oggi esporrebbe soltanto i proprietari al rischio di dover pagare sanzioni e interessi, oltre all'importo base. Quello che forse potrebbe cambiare è magari qualcosa nel meccanismo di ripartizione del tributo, perché l'IMU si chiama imposta municipale, di fatto però, a parte le prime case, per le quali il gettito resta tutto ai comuni, e gli immobili rurali strumentali, quindi le cascine, le stalle e così via, su tutti gli altri fabbricati il gettito viene diviso a metà tra lo Stato e il comune, con due implicazioni non da poco. La prima è che comunque la metà dello Stato viene calcolata sull'aliquota ordinaria, quindi in qualche modo se il gettito complessivo è 100, il gettito complessivo, chiedo scusa, derivante dalle aliquote ordinarie è 100 e il comune decide di fare uno sconto abbassandolo a 50, quel 50 va tutto allo Stato. Al comune non rimane un bel nulla. Esatto, perché l'aliquota statale, diciamo la quota statale, è fissa. E questo è un primo punto. Il secondo punto, che invece interessa più direttamente i cittadini e non gli amministratori locali, è che in un modo abbastanza paradossale e assurdo, se pensiamo che siamo nel 2012, la divisione di questa imposta tra lo Stato e il comune la deve fare il cittadino. Nel momento in cui va a pagare con il suo modello F24, deve indicare in due righe diversi, con due codici tributo diversi, la parte di imposta che va allo Stato e la parte che va al comune. Questo è un problema che non riguarda coloro che hanno la prima casa, perché come abbiamo detto sull'abitazione principale il gettito va tutto al comune, ma basta avere ad esempio due garage nella prima casa, di cui soltanto uno è pertinenziale, quindi soltanto uno può avere l'aliquota ridotta. Ecco che allora, avendo una casa e due garage, si deve compilare il modello F24 con tre righe. E questo è un bel paradosso, non da poco, per i cittadini che devono fare infatti i conti. Allora, questo è uno dei tanti problemi sollevati anche dall'Associazione dei Geometri Fiscalisti. Saluto e ringrazio per la sua prima partecipazione a Salva Danaio, dottor Gianni Marchetti, direttore della formazione di questa organizzazione. Marchetti, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi, grazie. L'associazione ne ha sollevati tanti, per la verità, poi naturalmente ve li ricorderemo. Questa è una figura professionale abbastanza particolare, naturalmente, che quindi deve chiaramente individuare le caratteristiche dell'abitazione qualora un contribuente chieda un aiuto e poi anche dirimere soprattutto tutti quanti i dubbi relativi alla parte fiscale. Allora, 800 24 00 24 è il numero verde per le domande degli ascoltatori. Potete anche intervenire scrivendoci al 349 238 6666, indirizzo salvadanaio@radio24.it, andate pure su Facebook, siamo anche sulle social network, che peraltro si quota in borsa entro una quindicina di giorni. Ve lo volevo ricordare, pare che la data ultima sia fissata per il 18 maggio, lo diceva il Wall Street Journal, l'edizione online proprio nelle ultime ore. Chiusa questa curiosità, noi siamo sul profilo salvadanaio-radio24. La borsa rapidamente è una giornata negativa, almeno in questo momento a Milano, che aveva iniziato per la verità con un umore decisamente diverso, migliore, era positiva così come tutte le altre piazze. Adesso invece c'è dell'1,66%, mentre Parigi è in crescita dello 0,80%, Francoforte è positiva dello 0,34%, Londra negativa di mezzo punto. Sono arrivati alcuni dati sull'andamento dell'attività manifatturiera nell'Eurozona, dati piuttosto negativi in aprile, perché l'indice PMI è sceso a 45,9 punti, è il valore più basso da tre anni a questa parte, quindi viene segnalato un peggioramento del clima economico del vecchio continente e questo si trasmette inevitabilmente anche sui listini. Lo spread fra BTP e Bund è a 390 punti, i peggiori titoli di Milano sono quasi tutti quelli del settore bancario, UbiBanca è il peggiore in assoluto, perde 7,5 punti. Dopo la corsa degli ultimi giorni frena anche in maniera consistente Salvatore Ferragamo, meno 5,5 punti, meno 4,62% per la Popolare dell'Emilia Romagna, meno 4 punti per il Banco Popolare Ansaldo, Mediaset Popolare di Milano. In su abbiamo invece Luxottica che guadagna il 3,70, STM più 3 punti. Direi che però la borsa la lasciamo subito, perché immagino che oggi ci saranno davvero tantissime telefonate da parte degli amici che ci seguono da casa. Allora rifacciamo il punto della situazione sull'IMU. A ormai meno di due mesi dal pagamento della prima rata, intorno all'IMU, la neonata imposta municipale che ha preso di fatto il posto dell'ICI, ruotano ancora molti dubbi e preoccupazioni. Il primo passo per non confondersi e capire il meccanismo di pagamento della nuova tassa è sicuramente chiarirsi le idee su date e scadenze. Entro il 18 giugno si paga il primo acconto, da calcolarsi in base alle aliquote standard, 0,4% per l'abitazione principale e 0,76% per le seconde case. Entro il 30 settembre i comuni potranno decidere se applicare una riduzione o un incremento, con la possibilità di alzare o abbassare l'asticella dello 0,2% per la prima casa e dello 0,3% per le altre. A quel punto la palla tornerà al governo, che entro il 10 dicembre, alla luce dei primi introiti ottenuti e dell'obiettivo atteso, che supera i 21 miliardi, si riserva ancora la possibilità di intervenire sulle aliquote. Entro il 17 di dicembre, infine, i contribuenti dovranno aver versato l'intero importo, tenendo conto del conguaglio relativo alle modifiche introdotte dal proprio sindaco e da Roma. A questo calendario già complesso si è poi aggiunta un'ulteriore variabile, la possibilità di frammentare il pagamento in tre rate invece che in due, pagando un terzo dell'importo il 18 giugno con le aliquote standard, un terzo entro il 17 settembre e un terzo entro il 17 dicembre con l'eventuale conguaglio. Resta comunque possibile mantenere le due rate, il 50% a giugno e il restante 50% a dicembre con il conguaglio. Per comprendere il funzionamento del sistema, già piuttosto articolato, è poi necessario avere le idee chiare sui passaggi da seguire per calcolare l'ammontare dell'IMU. tenendo conto della rendita catastale, dei moltiplicatori, delle quote di possesso, delle aliquote e, infine, delle detrazioni previste. 200 euro per l'abitazione principale, che aumentano di 50 euro per ciascun figlio a carico di età inferiore ai 26 anni. 800 24 00 24, numero verde per le domande degli ascoltatori. Infatti, come vi dicevo, ci sono già moltissimi ascoltatori che hanno prenotato il loro intervento, li sentiremo molto volentieri. Prima però volevo andare, vi ricordo che il Sole 24 Ore sta preparando un grande speciale che verrà pubblicato lunedì, poi Cristiano Dell'Oste ci darà tutti i dettagli. Prima però volevo sentire Gianni Marchetti dell'Associazione dei Geometri Fiscalisti per capire che tipo di dubbi vengono sollevate presso la loro organizzazione, sia in qualità di professionisti, voi che cosa ancora non vi è chiaro rispetto alle modalità di pagamento di questo tributo, alle caratteristiche anche del calcolo, perché anche quella è un'altra bella complicazione, soprattutto le persone che si rivolgono a voi per una consulenza, quali richieste di chiarimento più diffuse vi stanno inoltrando, Marchetti? Ma il dubbio principale che stiamo riscontrando è quello legato alla corretta individuazione dell'abitazione principale, nel senso che rispetto alla vecchia normativa ICI sono cambiati i parametri e quindi i maggiori problemi nascono credo su questo aspetto, anche perché prima delle modifiche introdotte dal Parlamento in questi ultimi giorni si faceva riferimento alla figura del contribuente a prescindere dal suo nucleo familiare. Oggi è stato introdotto il concetto di nucleo familiare, quindi i contribuenti sono, credo che il dubbio principale sia la corretta identificazione dell'abitazione principale. Altro problema è poi legato alle pertinenze laddove non siano distintamente accatastate, quindi per evitare di incorrere poi successive sanzioni qualora il numero delle pertinenze abbinate all'abitazione principale superi il limite consentito dalla norma. Ecco, questi sono i due aspetti principali che ci vengono richiesti dai contribuenti. Benissimo. Allora, Cristiano, anticipiamo già i contenuti dello speciale che il Sole 24 Ore pubblicherà lunedì, una super guida con molti anche esperti che, come al solito, si metteranno a disposizione dei lettori, un sito, certo, un indirizzo online, naturalmente. Noi abbiamo, insomma, in programma uno speciale che sarà appunto questa guida pratica, uscirà lunedì 7 maggio in regalo con il Sole 24 Ore, è un inserto corposo che stiamo preparando proprio in questi giorni e che avrà anche una sezione dedicata ai dubbi non solo dei cittadini ma anche degli amministratori locali, che comunque anche dal proprio punto di vista si trovano a dover fare i conti con complicazioni non da poco. E poi ci sarà abbinato, oltre al dossier online che attiveremo da lunedì, ci sarà anche un forum al quale i lettori e anche i tuoi ascoltatori potranno mandare le domande già a partire da venerdì, quindi già da dopodomani, collegandosi al sito del Sole 24 Ore, www.ilsole24ore.com, troveranno poi tutte le informazioni per inserire i propri quesiti. Benissimo, poi magari ricordiamo anche prima della fine della trasmissione le modalità per interagire con voi. Andiamo invece alle altre domande che possono riguardare un po' tutti e che riguardano questa scadenza. Allora, intanto, qualunque sia l'aliquota prescelta dal proprio comune di residenza, un primo acconto entro il 18 giugno, Cristiano, dobbiamo pagarlo. Dobbiamo pagarlo e dobbiamo pagarlo con le aliquote nazionali. Quindi ci sono alcuni comuni, non molti a dire la verità, che hanno già preso le delibere sull'aliquota. Ecco, in questo caso la delibera comunale, anche se è già stata votata dal Consiglio Comunale, non serve per calcolare l'acconto di giugno, che si paga, come dicevamo, sulla base delle aliquote standard nazionali. Quindi 0,4% sull'abitazione principale, 0,76% sugli altri immobili. Ma ammettendo di dover pagare 300 euro, no, complessivamente, ma questa è una cifra del tutto ipotetica, certo, perché noi quella complessiva la conosceremo solamente a dicembre. Come facciamo a capire qual è il primo acconto, l'entità del primo acconto? In pratica si fa così, si calcola un importo, diciamo, teorico dell'imposta dovuta su base annuale applicando le aliquote nazionali. Quindi poniamo che l'importo teorico sia, appunto, come dicevi tu, 300 euro. Io pago la metà di questo importo a giugno perché vado in due rate, quindi 150 euro. Dopodiché vedremo cosa succederà in vista di dicembre, cioè se il comune rimarrà perfettamente in linea con le aliquote nazionali, io a dicembre pagherò altri 150 euro. Se invece il comune si fisserà al di sopra delle aliquote nazionali, io dovrò ricalcolare l'imposta dovuta su base annua alla luce delle aliquote comunali, togliere i 150 euro che ho già pagato a giugno e pagare la differenza, fare quello che si dice il conguaglio, quindi andare a conguaglio. In qualche caso potrei, se il comune applica delle aliquote più basse, anche scoprire di aver già pagato più di metà dell'imposta dovuta a giugno, ma questo temo che capiterà piuttosto raramente, perché in realtà vuoi per le difficoltà di bilancio, vuoi perché la quota statale fissa obbliga i comuni a tenere alta l'aliquota, saranno pochi i comuni che potranno andare al di sotto delle aliquote ordinarie fissate dallo Stato. L'opzione di rateizzare in tre rate appunto il versamento, certo. Marchetti, voi lo state, no ma lo stesso poi Cristiano mi dice anche la tua naturalmente su questo, lo state suggerendo ai contribuenti che si rivolgono a voi appunto di praticare anche questa strada, che naturalmente viene guardata con terrore e angoscia dalle amministrazioni comunali, però in realtà magari per alleggerire questo extra che le famiglie devono sborsare, magari preferiscono insomma suddividere in tre il pagamento. Lei che cosa ne dice? Sì, noi lo stiamo prospettando la possibilità, ecco, nel senso che c'è appunto questa ipotesi. Devo dire che non tutti vi aderiscono, perché come dire, facendo due righe di conti, ad esempio, scoprono che al 16 settembre, con le corse 17 settembre, con il versamento del secondo acconto, avrebbero versato teoricamente da più del 50%. Quindi poi il contribuente si fa due conti, ecco, dipende poi dall'importo. Diciamo che non è utilizzato in modo automatico questa opzione. Cristiano Dell'Osso voleva... Sì, perché c'è anche una cosa importante da ricordare, che la rateizzazione in tre rate vale solo per l'abitazione principale. Per gli immobili diversi è obbligatorio dividere in due. Quindi per la seconda casa, che tra l'altro sono quelli già i proprietari di seconda casa che vengono gravati dall'aliquota più alta, certo. Inevitabilmente. Certo, quindi... tra l'altro c'è anche una complicazione procedurale da un certo punto di vista, perché immaginiamo di avere un'abitazione principale e una seconda casa. Chi paga in tre rate sulla prima casa e in due sulla seconda casa si trova di fatto a dover fare dei conti disallineati, non facilissimi, a fare un modello F24 a giugno, un altro a settembre e poi un altro a dicembre, quindi non sempre è una semplificazione. Quantomeno gli conviene rendere un po' omogenea la propria situazione. Allora, IMU, benedetta, maledetta IMU, quella che dobbiamo versare, il primo acconto naturalmente, a meno che, cioè, il primo acconto, il primo di due o il primo di tre, comunque entro il 18 giugno, ci dobbiamo mettere in regola con l'imposta municipale unica sulla prima e la seconda casa, ma anche su tutta un'altra fitta e lunga lista di fabbricati, fra cui quelli rurali, un'assoluta novità, anche questa è una questione che ha creato non poco scompiglio fra molti contribuenti e proprietari di questi immobili, magari dedicheremo qualche minuto a parte a questo ambito. Prima però, come promesso, molti ascoltatori ci stanno sollevando due questioni abbastanza basiche relativamente alla questione IMU, ma in realtà basiche un cavolo, perché in molto pochi abbiamo capito come funziona la definizione del nucleo familiare e la definizione di prima casa, questione che anche uno dei nostri ospiti, Gianni Marchetti, dell'Associazione dei Geometri Fiscalisti, appunto ci raccontava, è stata sollevata prontamente anche dall'organizzazione. Allora, intanto, Marchetti, a chi le viene a chiedere come deve essere definita prima casa, dimora, anzi, per l'esattezza, perché mi pare che la normativa esplicitamente utilizzi questo termine, no? Sì, uso il termine abitazione principale. Abitazione principale. Ma la norma istitutiva dell'IMU prevede che per individuare l'abitazione principale del contribuente occorre soddisfare due requisiti: il requisito della residenza, quindi la residenza anagrafica, quella risultante dal punto dell'anagrafe, e la dimora abituale. Quindi oltre a risiedere, oltre ad avere la residenza anagrafica, devo anche effettivamente abitare, dimorare nell'immobile. Rispetto all'ICI questa è una grande novità, in quanto in precedenza i due parametri non erano coincidenti, quindi in questo caso dobbiamo assumere la residenza anagrafica e la dimora abituale, quindi il contribuente deve effettivamente vivere e abitare nell'abitazione. Un po' come funziona anche per la questione della, adesso non mi ricordo, quando noi acquistiamo una casa e otteniamo l'erogazione del mutuo, appunto generalmente mi pare che ci siano i vigili urbani che vengono a fare il controllo, no, per verificare che effettivamente, per ottenere anche le detrazioni fiscali legate all'acquisizione della prima casa. Marchetti. Sì, l'ingegnere urbano viene a vedere, a verificare quando io cambio la residenza. Esatto. Cambio residenza, vengo a verificare se effettivamente io abito in questa tale dimora. Ecco. Mm. Però, ad esempio, nella normativa ICI io potevo avere la residenza anagrafica in un immobile e la domicilio in la dimora, la domiciliare in un altro, e potevo scegliere quale dei due eventualmente considerare prima casa. In questo caso è una e basta. È una e basta. Benissimo. Cristiano, volevi aggiungere qualcosa? Sì, possiamo forse fare solo una precisazione, perché come giustamente diceva Marchetti, la definizione della legge è abitazione principale. Principale, sì. Poi noi, parlando, diciamo, abitazione principale o prima casa. Attenzione a non confondersi con le agevolazioni prima casa, che sono praticamente l'imposta di registro e l'IVA scontata che si possono ottenere quando si compra un immobile. Allora, chi avesse acquistato un immobile con le agevolazioni prima casa e magari l'avesse affittato, avrà l'IMU come seconda casa su quell'immobile, ma non perderà le agevolazioni prima casa. Quindi attenzione a non confondere i due piani, perché si rischia magari poi di spaventare anche qualcuno che ha comprato un immobile beneficiando di agevolazioni che può mantenere. Benissimo, vi leggo una, poi vado agli ascoltatori, anzi no, cominciamo subito a sentire gli ascoltatori, perché ce ne sono molti pronti con il loro quesito. Lino da Roma, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo un chiarimento sulla casa data in uso di comodato a un figlio, sì, residente. Con la vecchia ICI era considerata come prima casa, adesso come viene considerata? Grazie Lino, mi pare che non conti nulla, no? Adesso diventa seconda casa, purtroppo. È uno dei passaggi chiave dell'IMU, che restringe in modo molto netto i confini dell'abitazione principale. Tutte le case concesse in uso gratuito a parenti, amici o a soggetti terzi vengono considerate a tutti gli effetti seconde case, quindi il proprietario paga ad aliquota ordinaria. Maurizio da Verona, buongiorno. Sì, buongiorno, in parte mi avete già risposto, in quanto io sono proprietario di una casa, per motivi di lavoro mi sono dovuto trasferire in un'altra città. Apprendo oggi che devo pagare come seconda casa l'IMU perché non ci abito dentro, però è l'unica casa che io ho, l'unica proprietà che io ho, e vado a pagare l'IMU come se fosse la seconda casa, quindi paga l'aliquota allo zero. Una grande assurdità, frutto ancora della terza guerra mondiale, perché questa è la grande terza guerra mondiale, con artefici sempre la Germania. È una triste considerazione. Lo so Maurizio, infatti abbiamo sollevato anche noi queste incongruenze, queste non saprei anche come definirle, non scorrettezze, perché poi non mi vorrei, però insomma lo no, so. Diciamo che c'è un obiettivo della legge che è abbastanza chiaro, che è quello di evitare quella situazione che si era creata con l'ICI, quando alla fine, l'ho scritto in un articolo recente, c'erano più prime case che proprietari, c'erano praticamente quasi 20 milioni di abitazioni principali con l'ICI in Italia su 32 milioni di abitazioni censite in catasto, quindi si era veramente esagerato. È chiaro che nell'andare a restringere ci sono casi come quello dell'ascoltatore, che magari si trova appunto a pagare l'affitto in un'altra città e in più su una casa che non vuole, non può affittare perché appunto magari ci torna nei fine settimana, rischia di dover pagare, anzi non rischia, pagherà l'IMU ad aliquota piena, salvo correzioni. Allora Raffaele da Roma naturalmente ci dà l'opportunità anche di aprire la parentesi relativamente a tutte quelle persone che possono godere dell'esenzione totale rispetto al pagamento di questo tributo, chissà che platea ridotta sarà, però magari qualcuno c'è che può beneficiare di questa opportunità. Raffaele da Bologna, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, volevo chiedere, avendo una rendita catastale sull'abitazione principale, un esente cosa deve presentare, qualcosa al comune o non deve presentare niente? Intanto vediamo, perché, sì. Sì. Sì. No, perché sapendo anche come muoversi, perché anche andando in comune a chiedere qualcosa, anche loro non mi sanno rispondere. Per questo volevo sentire questa risposta qua. Grazie Raffaele. Allora Cristiano, mi puoi aiutare tu, poi ritorno anche da Marchetti. Credo che questo sia il caso che si verifica, insomma si verificherà comunque in alcuni milioni di casi in Italia, di una persona che ha una rendita catastale così bassa che, andando a sottrarre la detrazione di 200 euro che è riconosciuta sull'abitazione principale, si trova ad avere zero come imposta dovuta. Allora in questo caso, per quanto ne sappiamo al momento, questo soggetto non dovrà presentare il modello F24, perché quello si usa soltanto se si deve pagare, e credo che non dovrà fare alcun tipo di comunicazione al proprio comune, insomma sarà di fatto ad avere imposta zero. Certo, però in questo caso, ecco, quella che abbiamo citato è un caso di esenzione grazie al fatto che esiste la detrazione dei 200 euro appunto sulla prima casa, e quindi gli azzera l'imposta. Ma esistono casi di esenzione totale dal versamento dell'IMU? Ah, per i privati no. I privati non ci sono, non esenzioni. No, l'esenzione che c'era prima era quella appunto sull'abitazione principale che adesso deve pagare. Poi ci sono appunto le esenzioni per gli immobili dei comuni, per gli immobili degli enti no propri. Però le finalità particolari, esatto, eccetera. Come è finita, Cristiano, la questione degli anziani o disabili residenti in casa di riposo ma che sono titolari di una abitazione? Allora, qui ci sono stati dei correttivi recenti dettati convertendo il decreto fiscale dal Parlamento. Allora, la situazione è questa, che se c'è un anziano o un disabile, quindi non necessariamente avanti negli anni, può essere anche un disabile giovane, che è ricoverato in modo permanente in una casa di cura o in un istituto di ricovero e che ha preso in quella casa di cura o in quell'istituto di ricovero la residenza, quindi deve essere anche residente nell'istituto. Allora, se lui è proprietario di un'abitazione che non viene data in affitto, al momento, secondo le regole base, paga ad aliquota piena, quindi 0,76%. Come seconda casa. Seconda casa. Poi è il comune che con un proprio regolamento, col regolamento che disciplina l'IMU, potrà eventualmente decidere che su quella casa va a pagare lo 0,4. Come dire, costituisce l'eccezione con una legge apposita. Come abitazione principale, esatto. Però deve essere il comune a deciderlo. E tra l'altro c'è anche un punto che non è chiaro, ma per come è scritta la norma, anche i commentatori che hanno scritto sul Sole l'hanno letto così, che comunque il comune dovrà riconoscere allo Stato la propria fetta di gettito su quell'immobile. Quindi di fatto, se il comune dispone lo sconto e quindi lo parifica all'abitazione principale, non incasserà praticamente nulla da quelle case. Neanche a dirlo, è arrivata su una situazione di quelle che abbiamo appena citato una domanda di Marco da Roma. Marco, non me ne ero accorta. Buongiorno, una mamma ricoverata in una casa di riposo. Sì, buongiorno. Posso pensare che la domanda sia sciocca, però preferisco farla. No, guardi, assolutamente. È talmente complicata tutta la questione esatto, che ogni domanda la accogliamo molto volentieri. Io le voglio dire, mia madre ha venduto la casa nel 2010, no? E adesso attualmente è ricoverata in una casa di riposo domiciliata e residente proprio in quella casa, per cui non ha alcun possesso, non possiede nulla. Per cui io presumo serenamente che non la paghi. Ma se l'ha pure venduta l'abitazione 2 anni fa, ci mancherebbe, Marco. Perché sì, le è venuto il dubbio? Mi è venuto il dubbio perché leggendo proprio sul giornale del Sole 24 Ore c'era proprio un trafiletto al centro dell'articolo che mi dava l'idea che dovesse pagare l'IMU nella casa di riposo. Allora ho detto, ma come? Se la spartiscono tra i pazienti? No, lei si è spaventato troppo in fretta, oltretutto non essendo più neanche proprietaria. Grazie Marco, un bacione alla sua mamma. Marchetti, vuole rispondere lei? Vuole rassicurare il nostro contribuente? No, assolutamente, nel senso che non essendo il requisito, il presupposto per il pagamento dell'imposta essere o proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile, quindi in questo caso non esiste proprio, viene meno il presupposto dell'imposta. Infatti ci mancherebbe, Marco, ci manca pure che il comune Alemanno le venga a rivendicare appunto il pagamento di questo tributo. Comunque ci dobbiamo fermare, abbiamo i suggerimenti per chi è in viaggio, poi andremo a Torino da Giuseppe, cercheremo di capire. C'è un'altra mail di un'ascoltatrice, Laura da Cornaredo, che ci racconta che ha 2 figlie minorenni, una delle quali 3 anni per ragione di iscrizione alla scuola materna ha la residenza presso i nonni in un comune diverso dal nostro addirittura, nonostante ovviamente la bambina viva con loro e risulti a loro carico. La detrazione per l'IMU sarà per entrambe le figlie o quella che ha la residenza dai nonni dovrà venire detratta da questi ultimi, a meno che appunto possa beneficiare di questa detrazione? Laura, anche a lei risponderemo tra poco. Allora, non possiamo accontentare Laura da Cornaredo, nel senso che sicuramente devi rinunciare a Cristiano alla detrazione per questa bambina, e non ne possono beneficiare i nonni proprio in quanto tali. Esatto, perché la legge la concede per i figli di età non superiore a 26 anni che abbiano la residenza e la dimora nella casa del nucleo familiare. Quindi in sostanza qui abbiamo una bimba che risiede e dimora con i genitori e può appunto dare la detrazione di 50 euro extra. Tra l'altro segnaliamo anche che non serve in questo caso che i figli siano a carico. Può sembrare discutibile, ma se il figlio lavorasse e avesse anche un reddito elevato, per il fatto stesso di avere residenza e dimora con i genitori, dà luogo ai 50 euro in più di detrazione. Quindi questo è un punto incredibile. Poi l'altra bambina, quella che dimora con i genitori ma risiede con i nonni per l'asilo, non darà la detrazione ai genitori perché appunto non ha la residenza con loro, e non potrà darla neanche ai nonni perché la legge chiede i figli conviventi. In questo caso lei è una nipote, quindi non ci siamo dentro rispetto ai requisiti della norma. C'è poi anche da dire che in teoria la residenza dovrebbe essere allineata con la dimora, quindi forse magari nessuno controllerà, ma qualche problema per l'asilo per verificare che sia tutto in regola sarebbe bene quindi posto. Quindi Laura, ecco, si faccia consigliare bene rispetto a questa costituzione di nuovo nucleo familiare che lei ha adottato per la sua famiglia, per l'appunto. Allora Luca invece ci scrive: mia nonna è proprietaria al 100% della sua casa, al 50% con mia madre della casa dove vivono i miei, al 50% con mio zio della casa dove vive mio zio. Dovrà pagare l'IMU su tutte e tre le proprietà per evidentemente la quota che le compete, ci scrive Luca da Senigallia. Marchetti, come distribuirebbe lei l'IMU fra tutti questi nuclei familiari coinvolti in queste tre abitazioni? Dovrà versare l'IMU per quanto riguarda l'immobile di sua proprietà, di sua esclusiva proprietà, dove immagino viva l'immobile, applicherà le regole previste per l'abitazione principale, mentre per quanto riguarda i due immobili di cui è proprietaria con il fratello, lo zio, se non ho capito male, applicherà per la sua quota del 50% la sua quota di proprietà la quota finale del 0,76, senza poter ovviamente utilizzare le detrazioni certamente che invece verranno utilizzate dai soggetti che utilizzano. Ah, ecco, quindi per esempio la mamma di questo ragazzo evidentemente potrà, se i suoi figli hanno un'età inferiore ai 26 anni, per il 50% di sua competenza, però per questa persona è la prima casa naturalmente, la nonna paga lo 0,76%, mentre questo nucleo familiare pagherà lo 0,4%, mettendo appunto l'aliquota ordinaria, e esatto, potrà beneficiare delle agevolazioni fiscali. È così, il principio della legge, la legge non lo dice esplicitamente, ma è un po' il senso, che ci deve essere una sola abitazione principale per famiglia. Nel caso del nostro ascoltatore, la nonna avrà la detrazione principale sulla propria casa, quella del 100%, ammesso che vi abbia, come diceva giustamente Marchetti, residenze di mora. Naturalmente ognuno fa l'F24 di propria competenza. Certo, perché l'F24 è personale, riporta i dati del singolo contribuente, quindi nel caso ci sia una comproprietà, ogni comproprietario deve fare l'F24 e pagare la propria parte di imposta. Allora, intanto volevo anche accontentare qualcuno degli amici che ci seguono da casa e che ci scrive al 349-238-6666. Adesso vado a pescare qualche domanda. Nel frattempo però sentiamo Giuseppe da Torino. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, grazie. Grazie a lei. La mia domanda è semplice. Proprietà tra me e mia moglie 50%. Devo semplicemente fare il calcolo totale nelle rate che desidero e poi dividere e fare due F24? Giuseppe, grazie. Marchetti, è un'operazione così semplice per il nostro ascoltatore di Torino, visto che comunque la casa è proprietà di entrambi? Sì, di entrambi. Sì. 50% cada uno. Marchetti. Sì, l'immobile di proprietà del 50% cada uno, sì, è come diceva l'ascoltatore. Dovrà poi suddividere nell'F24 le due quote. Una, Giuseppe fa l'F24 per conto suo e sua moglie pure? Sì. Benissimo. Sì. Allora, Andrea da Padova, beato lui, ci racconta che ha 12 appartamenti in affitto di proprietà. Deve pagare l'IMU per tutti quanti e per tutti, tra l'altro, saranno 12 seconde case? Cristiano, direi proprio di sì. Andrea, insomma, beneficerà di questa situazione, beh, chiaramente con la tassazione bella inasprita, però questo è quanto. Mia figlia se n'è andata via di casa, ma non credo abbia cambiato residenza. Purtroppo non possiamo controllare, non abbiamo più contatti. Come si fa? Ci dice l'ascoltatore, quindi ai fini di pagamento dell'IMU. devono capire se questa figlia è ancora, come dire, risulta nell'ambito di questo nucleo familiare, che tipo di controlli può fare la nostra ascoltatrice, la nostra contribuente Marchetti, come risolverebbe questo caso? Bene, credo che il primo controllo sia andare a verificare ciò che risulta all'anagrafe, lo stato di famiglia, quello è lo certificato di residenza e stato di famiglia. Da lì è il primo controllo. Poi chiaramente se non vive più all'interno del nucleo familiare, ovviamente non potrà beneficiare dell'eventuale detrazione, ammesso che abbia meno di 26 anni, beneficiare dell'eventuale detrazione. La sto mettendo in difficoltà stamattina, ma questa è colpa sua, Marchetti, perché mi ha detto che tutti i problemi più grandi relativamente alla gestione dell'IMU nascono sulla questione del nucleo familiare, quindi la sto mettendo alla prova stamattina. Allora, andiamo a capire appunto se ci sono altri ascoltatori che ci hanno scritto, vediamo un po', io perché sto cercando stamattina davvero di orientarmi sulle domande degli ascoltatori per capire che cosa ancora non è chiaro, sono tante cose. Nel caso di due pertinenze sulla prima casa, quale delle due paga l'IMU con tariffa ridotta, ci chiede Paolo. Paolo, Cristiano. Allora, qui la regola della legge è chiara, il garage, il soffitto, ma anche, cantina, ma anche complicata. Ecco. Allora, noi possiamo avere l'aliquota. Intanto, cosa sono le pertinenze? Perché per chi non ha una proprietà immobiliare, magari questa definizione. Le pertinenze, serve. Diciamo, sono i locali al servizio della casa, quindi le soffitte, le cantine, i magazzini, i garage e così via. Allora, noi possiamo avere l'aliquota ridotta su al massimo tre pertinenze, purché non siano più di una per ognuna di queste tre categorie catastali che ti dico adesso, che sono C2, C6 e C7. In C2 ci stanno le soffitte, i magazzini, le cantine, in C6 ci stanno sostanzialmente i box auto e in C7 le tettoie, i posti auto e così via. Se abbiamo due pertinenze per tipo, ad esempio due C6, allora cosa succede? Due box, esatto. Allora una va ad aliquota ridotta 0,4%, l'altra va ad aliquota piena 0,76. Poi però c'è un altro problema. Chi lo stabilisce che cosa è pertinente? Ah, si deve andare a vedere come risulta dalla situazione catastale. Però c'è un altro problema su quale vorrei coinvolgere Marchetti, se possiamo. Certo. Perché la legge poi dice che in realtà questo conto va fatto, quindi non più di una pertinenza per tipo, anche se le pertinenze sono iscritte in catasto insieme all'abitazione principale. E questa è una cosa che è abbastanza difficile da verificare per un comune cittadino, per un non addetto ai lavori, e che poi crea qualche problema, perché dove io avessi la censite insieme all'alloggio, mettiamo una cantina e una soffitta, che quindi sarebbero entrambe da accatastare in C2, al momento non si sa bene come orientarsi. Quindi su questo era interessante anche Marchetti capire. Ci dica un po', ha chiesto il suo aiuto Cristiano Dell'Osso, so che tra l'altro come Associazione dei Geometri Fiscalisti lo darete anche per il focus di lunedì con il Sole. Ma sì, ciò che diceva Dell'Oste è corretto, nel senso che la norma prevede, non prevede una particolare distinzione tra le pertinenze accatastate e le pertinenze invece insite nell'abitazione principale. Quindi spetta al contribuente andare a verificare se nell'accatastamento dell'abitazione sono state inserite anche, in particolare pensiamo a cantine, questo sarà il caso principale, cantine, solai, eccetera, eccetera. Da qui la nostra competenza è particolarmente importante, perché unendo la parte tecnica, la competenza tecnica, la competenza fiscale, riusciamo a dare una consulenza piena al contribuente, perché sappiamo leggere la misura. Esattamente, ecco, perché infatti non si tratta solamente di fare un calcolo. Rivolgendosi a un geometra fiscalista, il contribuente sicuramente avrà un servizio più qualificato rispetto a quello che può essere un CAF. Tra l'altro siete nati da pochissimo, vero Marchetti? Avete colto la palla al balzo, dice col ginepraio dell'IMU ci pensiamo noi, perché qua se non interviene una figura fiscale e tecnica allo stesso tempo, davvero poveri noi, dove andremo a finire? Diciamo che come associazione siamo nati da poco, ma la professionalità si occupa di fisco è da sempre. Benissimo. Le competenze catastali sono naturalmente legate alle competenze fiscali. AGEFIS, lo ricordo agli ascoltatori che volessero andare a curiosare sul vostro sito. Allora, ancora un paio di domande. Fabrizio da Treviso, rapidissimo, buongiorno. Poi c'è anche Raffaele, intanto leggo questa. Patrizio, un minutino solo, perché chiede: non sono proprietario di casa, ma vivo in un'altra casa di proprietà di mio padre. Allora, pago io come prima casa o lui come seconda? Mi pare abbastanza scontato, Cristiano, che paga il padre come seconda. Paga il padre, perché è il padre il titolare del diritto di proprietà e paga, come abbiamo detto prima, come seconda casa. Patrizio, rapidissimo, buongiorno. Buongiorno a tutti. Velocissimo, grazie. Bravissimi. Ascoltate, io sono proprietario di una mia abitazione e convivo in questa abitazione con la mia compagna che ho avuto 7 anni fa con lei. Lei però precedentemente aveva avuto una figlia con un precedente compagno. Sì. Viviamo tutti in nucleo in questa casa. Certo. Domanda. Sono minori di 26 anni, potete utilizzare il beneficio della detrazione? No, la domanda era, siccome mia moglie e la mia compagna ha lei i due figli a carico sulla denuncia dei redditi, posso io inserirli entrambi? Aspetti lì Patrizio, Cristiano, che dobbiamo chiudere? Io direi di sì, perché come abbiamo detto prima non c'è il requisito dell'essere a carico. Importa che i figli siano residenti e conviventi. Benissimo, per tutti gli altri che non abbiamo potuto accontentare quest'oggi, scriveteci a salvadanaio@radio24.it. Grazie a Cristiano Dell'Oste e Gianni Marchetti, a domani.